Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, facciamo compagnia sempre, anche ad agosto. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Sono puntate in cui, lo sapete, vi riproponiamo i best seller stagionali delle nostre interviste, le nostre puntate migliori, roba fina. Giovanni Capuano, mio abituale compagno di banco, è qui con me. E abbiamo anche un grandissimo ospite. Abituale pure lui, Marco Bellinazzo dal piano di sopra. Uno dei maggiori scrittori di best seller di quest'estate. Esatto. Beh, ora non esageriamo. I padroni del calcio. Anche perché poi arriva il fisco. E... lo leggono, arriva il fisco. Sì, te la mando io la visita fiscale. Perché secondo me c'è qualcosa da scoprire. No, tra l'altro, si legge il tuo libro anche in luoghi strani per queste letture. Sì, qualcuno mi ha scritto da Formentera, lo stava leggendo in spiaggia. Di solito a Formentera si fanno in spiaggia cose. Sulla sdraio si ha un drink in mano, sì. Invece lui aveva il libro e non so quale ispirazione potrà trarne. Lì ci sono di solito calciatori. Io una vaga idea ce l'ho. Arriva lì una signorina e dice: scusa, ma cosa stai leggendo? Il libro di Bellinazzo. Sì, i nuovi padroni del calcio. Allora, oggi vi faremo riascoltare tra l'altro un'intervista istituzionale, perché il profilo istituzionale è ormai quello di Zorro Boban, sulla FIFA, il nuovo volto della FIFA. È un aspetto molto interessante, Marco. Sì, peraltro c'è tutto un filone ancora inedito, in qualche modo poco esplorato, che vede proprio tutta una serie di ex calciatori delle repubbliche slave, se non addirittura quelle collegate alla Russia, che si stanno in qualche modo coalizzando per ridare spessore al calcio balcanico, al calcio slavo, appunto. No, ma questa è una novità, no, Giovanni? È una novità. Il coinvolgimento diretto di ex calciatori. È una novità, ma io credo tu faccia riferimento anche a Savicevic e a tanti altri. Assolutamente sì. Sono più pronti loro a dare il potere agli ex calciatori di tanti altri movimenti. Noi non ne parliamo. Noi abbiamo serie difficoltà con le bandiere di tutti i tipi a sventolarle, come dire. Sì, magari le mettiamo sul balcone se accettano e stanno lì buone e ferme zitte. Però una FIFA comunque che ha un nuovo volto, ha una nuova credibilità. Boban ce l'ha detto. È chiaro che apriamo un credito di fiducia, ma lo sì, apriamo. C'è da dire che, come ho provato a raccontare nel libro, c'è questa difficoltà di Infantino di andare oltre il passato, e non a caso i suoi primi due provvedimenti importanti sono stati fatti nel solco della tradizione, diciamo, blatteriana o di quella di Avalanche, cioè l'allargamento dei mondiali. Mondiale 2026, 48 squadre, una su quattro delle nazionali esistenti. Io sono d'accordo fino a un certo punto, non so voi. No, a me non piace, soprattutto se poi l'Europa guadagna pochissimi posti, e quindi significa che è un gioco politico. È un gioco politico per aumentare il consenso. L'altro provvedimento in stile blatteriano è quello di aumentare i fondi alle confederazioni, alle federazioni, quindi alle istituzioni, anche qui per creare chiaramente consenso politico. Questi, devo dire, sono stati due provvedimenti che mi hanno lasciato più perplesso, accanto a tutta una serie di altre iniziative che invece sta prendendo Infantino e che cercano appunto di innovare in un sistema che era rimasto ingessato, che era rimasto talmente, come dire, anchilosato nelle sue abitudini, da permettere poi a tutta una serie di faccendieri e di finti funzionari che svolgevano in realtà non funzioni pubbliche per il calcio ma per se stessi, di vendere. Hanno rubato tutto, hanno rubato a mani basse, rapina a mano armata. Ma Boban lo ha chiaramente detto, lo ha ammesso e ha cercato di rompere con il passato. Si è provato a parlare anche della storia della regolamentazione degli agenti. Questa mi sembra una faccenda un po' più complicata, al di là delle parole di rito di circostanza. Sai, io ho visto un grande scambio che appunto però è legata alla FIFA di Blatter, perché per anni si è parlato delle cosiddette TPO, cioè di questi strumenti con i quali agenti, non solo agenti, prima ancora erano stati i familiari, prima ancora era stato presidente, il presidente Macri, il presidente argentino Macri, quando era presidente del Boca Junior, è stato uno tra i primi a fare le TPO, cioè a comprare quote del cartellino per poi fare plusvalenze. Tra l'altro nel libro racconto di questo strano episodio, Macri faceva queste operazioni con un suo amico notaio che si chiama Arribas. Questo Arribas evidentemente ha iniziato a guadagnare bene, non fa più il notaio, ha fatto il procuratore per anni, in parte continua ancora a farlo con il caso Calleri, che vi ricorderete doveva arrivare all'Inter, non ci è arrivato. Comunque quando il presidente Macri è diventato presidente anche dell'Argentina, evidentemente aveva talmente fiducia in Arribas che lo ha nominato a capo dei servizi segreti argentini. E questa è una delle storie di calcio e potere che racconto, insomma, che provo a delineare nel... Che galantuomo, Giovanni. Sì, tra i nuovi volti c'è anche quello del presidente dell'UEFA Ceferin, che qualche settimana fa in un'intervista a Tutto Sport ha, secondo me, detto una cosa che se gli riesce è la rivoluzione. Cioè, i ricchi stanno diventando troppo ricchi, i poveri troppo poveri, metteremo un tetto a tutti. Budget, ingaggi, numero delle rose. No, non se sono lo fa, se lo fa, se lo fa, probabilmente rende un favore. Invece io sono d'accordo, rende un favore al calcio europeo. Una delle sue idee, se io non sono d'accordo, perché chi ha il potere, cioè chi ha la possibilità di spendere tanti soldi li spende, ma questo fa il paio con un'altra mia idea. Io sono convinto che un campionato europeo per grandi club stile basket sia necessario, sia una rivoluzione. State cogliendo tanti aspetti che ci sono dentro i veri padroni del calcio, perché appunto la FIFA abolisce le TPO nel 2015 come momento, diciamo, di trasparenza. Però ha fatto la legge contestualmente abolisce il regolamento degli agenti, liberalizza il settore. Oggi basta che uno vada a una federazione, si registra e autocertifichi di avere, di avere una reputazione impeccabile, proprio così si dice, e fa l'agente, non ci sono più limiti sulle commissioni, e abbiamo visto la crescita esponenziale che è accaduta in questo calciomercato di commissioni. Il Milan per esempio sta pagando commissioni molto più alte della media per fare questa campagna, è tutto legittimo, ma fa parte di questa deregolamentazione e di questo scambio tra la lobby dei procuratori e la FIFA di Blatter. Ceferin cerca ora di porre dei rimedi, perché effettivamente si è creato un oligopolio, sono sempre le stesse squadre a vincere, salvo casi eccezionali, e bisogna trovare un rimedio. Qual è il rimedio? Io, come dire, ritengo che importare regole dagli sport professionistici americani senza importare un intero meccanismo, no? Che regolamenta quel tipo di sport, che sono molto competitivi ma anche molto equi nella distribuzione delle risorse, come un po' fa la Premier, è un errore nel momento in cui il sistema europeo calcistico è completamente diverso. La Superlega delle squadre di calcio è uno dei progetti ovviamente combattuti dalla UEFA, ma che è come dire quasi nella dinamica naturale di questo settore. E se pensi se ne parla da 15 anni, l'abbiamo già visto in questi giorni, in queste settimane, c'è già un anticipo, e cioè questa International Champions Cup con tutte le grandi squadre che giocano nel mondo, in realtà sono un anticipo, perché chi è proprietario del marchio è un soggetto che si chiama Stephen Ross, è un americano che è anche proprietario di franchigie negli sport professionistici USA, ed è il soggetto che qualche mese fa, vi ricorderete, era stato fotografato a Londra con i manager di Liverpool, Chelsea, Manchester United, perché è quello che insieme, dopo essersi comprato il calcio estivo, di fatto vuole prendersi anche quello invernale e fare la Superlega. Però diciamo che ci sono ancora degli spazi di mediazione, di crescita all'interno dell'attuale sistema. Ad esempio noi stiamo per entrare nel primo anno della nuova Champions League, che ci porterà fino al 2021, ma noi sappiamo ad esempio che uno dei progetti è di portare le partite della Champions League nel fine settimana per poterle vendere, quindi già farlo più ricco senza necessariamente andare a regalarlo a qualche ultramiliardario. È il compromesso e cambiare la natura del calcio europeo, che secondo me sarebbe un errore. Sì, indubbiamente bisogna trovare. Noi non siamo americani. Il problema vero è che nel racconto che io faccio di calcio e geopolitica dei veri padroni del calcio, proprio l'Europa esce in qualche modo ridimensionata e vittima di una di un cambio della guardia a livello di gestione, di governance del calcio globale. E cioè a dire che alcuni grandi paesi, la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, i paesi del Golfo, hanno compreso l'importanza del calcio e come industria e come strumento di legittimazione politica, e hanno deciso che non potevano più delegare a un ente come la FIFA, che sia pure formalmente indipendente dal mondo della politica, gestiva questo business e questo strumento appunto politico, magari volendo essere indipendenti come voleva Blatter. Gli Stati Uniti fanno scendere in campo l'FBI per detronizzare Blatter e Platini, ricordiamocelo. Non lo dimenticheremo mai. Grazie Marco, Giovanni. Grazie qui. A voi, a presto. I love this game. Tutti convocati. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Tutti convocati. Allora Giovanni Capuano, dopo questa lunga chiacchierata, bella chiacchierata con Marco Berinazzo introduttiva, rimaniamo sul tema padroni del calcio, una nuova FIFA, nuovi vertici, nuove facce. C'è sì, Zorro Boban. Nuove facce che sono tra l'altro la grande novità del nuovo corso, cioè finalmente i grandi campioni, quelli che a pallone hanno giocato, che si stanno avvicinando al governo del calcio. C'era stato solo Beckenbauer, diciamo così, a memoria. Adesso abbiamo Boban, ne abbiamo tanti. Ma poi Boban, insomma, abbiamo imparato ad apprezzare, in Italia è una testa fina e quindi bisogna prendere rigorosamente in silenzio nota di quello che dice. E lo ascoltiamo quello che dice. Ciao Zorro. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ben trovato. Vabbè, come suona male sto vice segretario. Vuoi fare subito presidente? Senti, mi pare del tuo nuovo lavoro. Se, suona male vice segretario generale della FIFA, però è un incarico importante. Cosa state facendo? Cosa stai facendo e cosa state facendo? Ma io credo che FIFA sia oramai una organizzazione completamente differente di quello che era prima, diciamo infangata da quelli che senza minimo rispetto per il calcio, per la onestà, per i soldi, alla fine senza responsabilità l'hanno veramente messa a un punto di non ritorno, cioè a un punto pazzesco, e lo sappiamo, l'abbiamo anche visto. Lo dico, c'è anche altre buone persone che hanno fatto tanto col calcio insieme alla FIFA, che non possiamo solamente così cancellare, non l'abbiamo fatto. Comunque l'organizzazione è stata trasformata completamente per quello che riguarda almeno regole interne, controlling, responsabilità per il denaro non nostro, cioè il denaro del calcio, e che deve essere restituito al calcio development, giusto così. Un numero che dice tanto, che in un ciclo prima si investiva 320 milioni nel development, quindi nello sviluppo calcistico, noi in un ciclo investiremo da 1,4 miliardi a 1,7 miliardi. 700 milioni, allora tutto quello in mezzo, no? Ma è chiaro, chiaro Zorro, ma dopo anni di latrocini, ruberie, saccheggi, lo sappiamo, non è un segreto, non si trattava di ricostruire dalle macerie. Però non mi piace tanto l'idea del mondiale a 48 squadre, è una scelta che fa discutere, troppo largo, lungo, forse costoso. 48 mi sembra largo, troppo. Lungo in che senso? Largo, lungo in che senso? Allora, no, troppo 48. No, ma guarda, a largo diciamo del numero è strano vedere 48 mondiale, poi sono 22% delle nazioni che giocano calcio che fanno parte della FIFA, l'UEFA lo fa per più di 50% l'europeo, ma non è quello, i numeri poi parlano o non parlano tante volte, allora giocano le nazionali, non giocano le nazioni, questa è la risposta. Secondo me la migliore che possiamo dare su questo. Poi noi abbiamo l'articolo numero 2 della FIFA, il sviluppo calcistico, quindi noi dobbiamo offrire a questi di sognare una volta in 4 anni di fare un girone a 16 squadre in più nello stesso numero dei giorni, nello stesso numero delle partite, quindi non si gioca di più perché bisogna rispettare i giocatori che giocano ormai troppo, e non durerà di più. E offriremo sogno a tante piccole nazioni che sono poi forti, però vai a giocare contro la Croazia, con la Serbia, contro la Svezia, ma lo sappiamo. cioè ci sono quelle che entrano dentro, ci sarà la Norvegia, quelle squadre lì non saranno mica, beh, non voglio adesso offendere, però dire quelle di 5.000 persone che no, ma è chiaro, Zoro, ma infatti io sono le nazionali, questo è principale. Io sono contrario al sistema di qualificazione attuale, cioè ci sono delle grandi squadre, soprattutto europee, che rimarranno fuori dai giochi e sono quasi favorevole a un ranking abolendo le qualificazioni, posso dire. Ma questo non esiste, sì, questo non esiste perché le qualificazioni si devono fare. Vabbè, si devono fare, però ti immagino un mondiale comunque senza le grandi, cioè un mondiale senza la Spagna, l'Olanda, come è successo, senza l'Italia, senza la Croazia, fa niente, devono qualificarsi. Se noi togliamo fuori la competizione, l'idea dello sport si toglie fuori, cioè l'idea dell'approccio per fare, per veramente ottenere qualcosa con il merito, poi quello che sei stato, complimenti, ma devi comunque esserci anche adesso. Io trovo giusto le qualificazioni, anche quelle dell'Europeo, da dove abbiamo imparato tanto, che l'Europeo 76 si giocava quattro squadre, sì, 80, lo so, quattro ancora otto squadre, ma no, adesso cioè, il mondo va avanti, lo calcio si è sviluppato in tante terre, una volta in quattro anni avranno diritto di sognare, cioè prima ci offendevano un po' la FIFA che era solo troppo esclusivo, adesso un po' più sociale questo mondiale, io sono stracerto che non perderà di qualità, perché quelle 16, come ti ho detto, abbiamo visto Islanda e Wales in questo, giocano calcio. Costa Rica ha fatto fuori Italia. No, ma appunto, ma io non so mica, non ti sto mica dicendo che non ci deve andare nessuno. Io dico soltanto che le grandi storiche, a me piace vederle ai mondiali. Ti sto dicendo ma questo. Loro comunque, ma ancora di più con questo sistema si qualificheranno anche più facilmente. Invece voglio chiederti un'altra cosa. Sì, ma sono 7 da 10 che si qualificheranno. Guarda il Comenbol che si chiama la UEFA sudamericana, sì, a 10 squadre. Cioè non, allora bisogna, sai, bilanciare, che l'abbiamo studiata molto molto bene, e loro alla fine avranno 7 di Sud America, che sono grandi squadre quasi tutte, quindi no, io credo che vediamo, poi ci proveremo all'inizio, dopo torneremo ai passi, sì. Proviamo, siamo stra certi di averla, siamo stra sicuri di averla pensata bene, di averla valutata bene, perché c'è vediamo come va, ma io sono favorevole alle innovazioni, ad esempio, questo riguarda l'UEFA, non la FIFA naturalmente. L'UEFA non vuole la Superlega, non so qual è il tuo pensiero. Io vorrei vedere un campionato europeo, perché tra le grandi squadre, come l'Eurolega nel basket, insomma, ormai ci sono troppe grandi squadre, sono troppo più ricche delle altre, troppo più grandi, troppo più importanti. Il Bayern Monaco non perderà un campionato di Germania mai, in Italia la Juventus vince lo scudetto da 6 anni, come sai bene, e in Spagna sono Real Madrid e Barcellona. Allora, perché non fare un campionato vero di 20 squadre che giocano tutte le settimane a livello europeo? Ma guarda, sono sviluppi calcistici del business, della realtà e della esclusività di certe squadre, ovviamente, che vanno protette. D'altra parte va protetto tutto il sistema. Cioè, tu hai già la Champions League, che già quasi esiste in una maniera differente, come una coppa, esiste già questo. Quindi giocherebbero le stesse Champions League più la Superlega europea. Ci verrebbero le doppie sfide in continuazione, per esempio. No, cioè, al posto della Champions League fai una Superlega, no? La Champions League, sai, comunque l'UEFA avrebbe ovviamente allora tante difficoltà in tutto, ma guarda, dopo cosa facciamo con i campionati nazionali? I campionati nazionali, sai, queste squadre ormai sono talmente grandi che possono, hanno 35 giocatori, poi fanno quello che vogliono, però ogni mercoledì si gioca nell'altro campionato. Questo è il mio pensiero, un campionato che sarebbe di una straordinaria bellezza e importanza. Poi no, queste sono mie idee che condivido con te. No, va bene, ma guarda, sono idee che già esistono dagli anni 80, non è che sono cose nuove. Cioè Berlusconi ha detto sulla Liga, Lega Europea del 87. Mi ricordo. Ha parlato, quindi, perché vedeva lo sviluppo televisivo, vedeva lo show che ci doveva essere, e il finanziamento del calcio attraverso la televisione, che era l'unico alla fine dei conti e che sta avvenendo. però bisogna avere equilibri, bisogna avere equilibrio e anche sai, se no veramente si potrebbero cancellare quasi tanti centri calcistici, che diventerebbe forse anche un'americanata forte, eh? Non dico che non avrà tutto, di una chiusura e di un sparire, di un non sentire neanche la storicità dei campionati che abbiamo, perché si direbbe che cercherebbe il campionato con la seconda squadra. Se si mantenesse dopo la Champions, quindi comunque la Champions è una fantastica competizione. Che non ci sia una roba, insomma, la teniamo così, vabbè. No, ma io ti capisco e capisco anche, perché ci sono tanti anche grandi club, credo che ci pensano, ma però non è facile superare tante barriere socio sportive. Senti, ti chiedo un'ultima cosa. Si discute in questi giorni in Italia, ne parlavamo prima con, a proposito, ti saluta Filippo Galli, che era in collegamento prima con noi. Ascolta, parlavamo con Marco Berinazzo del Sole 24 Ore su questa vicenda su cui la FIFA sta indagando, dei soldi percepiti dai procuratori che formalmente sono illeciti, cioè i procuratori non possono possedere una percentuale di un giocatore. Poi questa direttiva viene aggirata, sai che mi riferisco al caso Raiola, è in corso un'indagine della FIFA sul trasferimento di Pogba, potrebbe ripetersi la stessa storia con il ben noto Donnarumma, perché pare che Raiola vuole una commissione del 20% sulla vendita del giocatore. Io credo che questa situazione sia da regolamentare sul serio. Ma questo fuori dubbio. Poi se uno vuole fare qualcosa di diverso, ma visto, deve anche rispondere, ci sono le decisioni e le conseguenze. Però io credo, noi stiamo pensando, è una roba molto molto complicata, perché sempre si può in una o l'altra terza maniera far sì che avvenga pagamento a una persona attraverso, esatto, sappiamo che esatto, è quasi impossibile, però almeno certe regole ci saranno. Io credo che abbiamo un avvocato alla presidente della FIFA molto capace di questo e che sta pensando più che seriamente. Io devo dire che so cosa viene, sono stato di là, ho avuto mio padre come procuratore, figurati che procuratore per questa la vita, poi un po' alla fine che avevo problemi Giovanni Branchini. Però è un mondo complicato, che bisogna mettere le regole, che poi, dopo, se vengono aggirate, qualcuno poi, non credo che appunto, non si scoprirà mai tutto si gioca. Noi credo che come ecco, la massimo livello di quelli che guidano calcio, ovviamente dobbiamo fare qualcosa. No, Zorba, tu sei stato da noi per tanto tempo, sai come si dice in Italia, no? Fatta la legge, trovato l'inganno, diciamo noi, ma lo sai benissimo, che lo sai anche tu, e quindi però inganno poi, se scoperto, viene punito. Dovrebbe essere punito, mio caro. Dovrebbe, siamo lì, sappiamo, la vita è complicata, mica è un'autostrada. grazie Zorro, spero di sentirti presto. Zone Boban. Ciao. Ad avere i soldi di Inzaghi. Ad avere i soldi di Pippo Gol. Tutti convocati. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano, da lunedì al venerdì alle 16 e tutte le domeniche alle 19:10, qui su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Adesso andiamo a un'intervista che con Pierluigi Pardo abbiamo fatto al commissario tecnico della nazionale Ventura, Giovanni.